c'è la luna in cielo e io brucio di amore. Focuca si consuma come lume core. L'anima giaci addolorata, non c'è la pace, ma chi ma la lottata. Il tempo passa, ma non aggiorna, non c'è mai sole, città non torna. Brucia la terra mia e brucia l'umicore, che si ti dia acquaità e Dio sete di amore. A cula canto la mia canzone, c'è non se notto casa fazia allo barco.